Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, serve lui! Said I pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do it. Ed eccoci, eccoci, eccoci. Buonasera a tutto l'ascoltatore di Radio Wombat. Oggi Addu qui con voi su Nervature, trasmissione che vi parla di piante, chi sono, cosa sono, come funzionano, come le usiamo, come le vediamo, come le percepiamo e come le sfruttiamo. Ogni puntata aggiungo un verbo in più, che ne dite, si va sempre più nel profondo. Dunque, 19.07, arrivo un pochino in ritardo, giusto 7 minuti in ritardo, ma mi perdonerete, sono sicura. E oggi quindi è lunedì 2 ottobre, è già iniziato l'anno nuovo, il finto anno nuovo, ovvero quello scolastico, e da un po' anche la scorsa settimana già ci siamo sentiti e come sapete avevo fatto una piccola pausa, non così piccola, in cui non avevo trasmesso, ma sono ripartita subito a bomba. In realtà SNI oggi, già mi scuso, è una puntata un po' meno ricca perché non sono riuscita a preparare tantissime cose, ma comunque cercherò lo stesso di tenervi compagnia. E ricordo ovviamente i contatti della radio, quindi appunto siete tutto su Radio Wombat, la radio libera di Firenze, questo ovviamente è sempre da ricordare benissimo. Ci trovate su radiowombat.net, da cui probabilmente già state ascoltando la diretta, grazie al bottoncione giallo della diretta. Ma su cui potete anche trovare tutte le pagine dei podcast delle varie trasmissioni di Radio Wombat, quindi non solo mie, ma di tantissimo altro compagno. E dunque vi manderei subito un pochino di musica, appunto oggi si parte con calma e mi aiuto con questo bel tappetino, ci sentiamo fra pochissimo. Eccoci, eccoci, era una bellissima musichetta, che ne pensate? Questi erano The Brecker Brothers e oggi mi servirò molto di loro, sentirete altre canzoni loro, come ho detto le userò un po' come tappetino. Dunque, intanto vi introduco uno dei due argomenti di oggi. Niente di spettacolare, come vi dicevo, per la puntata di oggi, ma comunque vi terrò compagnia lo stesso fino circa alle 8:30. E quindi il primo argomento di oggi è questa notizia che c'è approvato un progetto per Piazza Annigoni, ovvero dove c'è il mercato delle pulci di fronte a Sant'Ambrogio. E quindi la notizia è questa, vi leggo giusto per buttare lì appunto la news, un articolo di La Nazione, quindi non ho fatto un'accuratissima ricerca, devo dire, ma partiamo da qua. Dunque, Firenze, 1 ottobre 2023, antagonisti in due diversi edifici della città. No, mi ha cambiato articolo. Aspettate, arrivo. Scusate, era finito in fondo alla pagina, non mi tornava infatti. Eccomi qua. Dunque, allora, rivoluzione largo Annigoni, ecco, questo si parte meglio. Il verde cancella il cemento, alberi e fiori alle pulci. Piazza Annigoni diventa viva e verde. Il grande spazio rettangolare che ospita anche il mercatino delle pulci è pronto a cambiare volto. Adesso sarà resa più bella, con pareti verdi e alberi non soltanto per gli avventori dei locali, ma per tutti i fiorentini che avranno panchine e ombra per rilassarsi e frescheggiare. E sarà possibile contrastare l'effetto isola di calore che rende la piazza troppo calda in estate. Piazza attraversata a centinaia di persone ogni giorno, in un quartiere bellissimo a cui va restituita, afferma l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio, vogliamo iniziare a farla diventare un luogo più vissuto dai cittadini, dagli studenti, da chi frequenta il mercatino delle pulci, grazie soprattutto alle piante che la renderanno più bella, più fresca e alle panchine che saranno disposte in modo da incentivare il dialogo e lo scambio tra le persone. Largo Annigoni attualmente presenta una pavimentazione in lastre di pietra arenaria che fa da rivestimento al solaio di copertura del parcheggio pubblico interrato. Nella piazza è stata recentemente realizzata la nuova sede del mercato antiquario con due fabbricati, quindi appunto il mercato delle pulci. Un quadrante cementificato dunque che adesso cambierà volto e prospettiva. L'intervento previsto si sviluppa nell'ampio spazio libero tra il mercato e il nuovo ingresso della facoltà di architettura e prevede un rimboschimento composto sia da alberi in vaso che da una parete verde di piante arrampicanti sul lato esposto a sud. Tramite l'ombra e la traspirazione delle coperture vegetali disposte a protezione dalla radiazione solare, consentiranno di abbattere una percentuale alta del caldo e delle radiazioni, dando luogo ad una riduzione della domanda di energia necessaria al raffrescamento estivo, quindi aree condizionate, dei locali che costituiscono il mercatino antiquario. Oltre alla realizzazione della parete verde, con annesso impianto di irrigazione, il progetto prevede l'installazione di nuove alberature poste in grandi fioriere disposte davanti all'ingresso ad architettura alla facoltà, in modo da comporre una forma semicircolare e nella porzione posta a est attigua alle case. La parete verde sarà composta da 30 fioriere, quindi 30 fioriere dove verranno interrati arbusti della famiglia delle rosacee lati 3 metri, mentre gli alberi in vaso dotati di impianto di irrigazione saranno in tutto 16. Questi alberi saranno quindi 12 gelsi da ombra, alberi stupendi, e 4 alberi da sigaro, entrambe le specie piante dalla chioma larga e ombrosa. Quindi l'idea è proprio ovviamente quella di fare ombra e vabbè, non è che sia un progetto così innovativo dal punto di vista stilistico o niente, cioè degli alberi in delle fioriere con delle sedute intorno, insomma, più una copertura solare e vabbè, un po' di verde verticale per schermare un po' gli edifici del mercatino. I nuovi alberi saranno di grandi dimensioni, attenzione, con un diametro del fusto di 40-50 cm. Ora, di solito una spanna sono circa 20 cm, rendetevi conto di quanto può essere 50, tantino. Dunque, quindi il diametro del fusto deve essere tra i 40 e i 50 cm per fare ombra velocemente. Ma io sono un po' dubbiosa. Il regola numero uno per i paesaggisti e giardinieri: piantare individui, quindi piante piccole di giovane età, di piccola stazza, perché attecchiscono meglio. Questa è la prima regola di tutti i giardinieri. Oltretutto, qui in Piazza Annigoni, a quanto pare questi alberi saranno messi in delle fioriere, perché appunto, come si sa, sotto c'è un parcheggio, c'è un parcheggio sotterraneo, perciò non c'è proprio terra lì. Non è che levando le prime lastre impermeabili, cemento, dopo si trova terra. No, lì non c'è. E quindi ovviamente è impossibile piantare in terra, quindi ovviamente servono delle fioriere, il che già di per sé complica la crescita di una pianta, soprattutto ovviamente se questa è arborea. Oltre a questo, piantare fin da subito individui già grandi, appunto di 40-50 cm di diametro del fusto, è veramente veramente azzardato, a mio parere. Spero di sbagliarmi, però dai. Fatto un'interruzione, ma l'articolo non era ancora finito, quindi continua così. Il progetto, dal costo di 100.000 euro, sarà realizzato entro novembre. Verrà rimodulato durante i lavori per il rifacimento della pensilina del mercato di Sant'Ambrogio e poi tornerà al suo posto. Nel frattempo il mercatino delle pulci però non verrà spostato. E infine, sempre nell'articolo della Nazione, Eleonora Settepassi, che è la presidente dell'associazione Mercato Storico Antiquario delle Pulci, dice: siamo contenti che la piazza venga abbellita e, visto che questa è anche un'isola di calore, finalmente si fa un passo avanti per abbatterla. Questo è come conclude l'articolo della Nazione, articolo del, scusate non ve l'ho detto, del 1 ottobre 2023, quindi ieri, riguardo al nuovo progetto della piazza Annigoni a Firenze. E concludo, anzi concludo, diciamo, integro questo argomento e ripeto quindi il nuovo progetto riguardante Piazza Annigoni di Firenze, quindi quella del Mercatino delle Pulci, con un secondo articolo, questo invece di Repubblica, quindi proprio base oggi, ve l'ho detto. L'articolo è l'assessore all'ambiente Giorgio, nuove piante in Piazza del Carmine e Largo Annigoni, già perché questo riguarda anche Piazza del Carmine. Serve coraggio, non possiamo, questo è il virgolettato dell'assessore, serve coraggio, non possiamo permetterci conservatorismi, dobbiamo ridefinire un nuovo equilibrio tra conservazione del paesaggio e vivibilità della città. Dopo la lettera dei 49 contro la decisione di Palazzo Vecchio di mettere 50 aranci in via Cavour e il dibattito più generale che ne è nato sugli alberi in centro, tra poco il direttore scientifico della Fondazione per il Futuro della Città, Stefano Trappro, scusate, che quindi sono il direttore scientifico della Fondazione per il Futuro della Città, ovvero Stefano Mancuso, e lo storico dell'arte Tommaso Montanari, e invece i contro, è ora l'assessore all'ambiente di Firenze, Andrea Giorgio, a dire la sua. Lanciando il piano del verde che sarà pronto entro fine anno e a cui sta lavorando un green team di esperti di varie discipline con l'intento di rinverdire piazze, strade e parcheggi, posare asfalti riflettenti che abbattono fino a 20 gradi le temperature del suolo e depavimentare le zone attualmente impermeabili. Interventi che non potranno essere solo fuori dal centro storico ma anche all'interno. Serve coraggio, dice l'assessore, non possiamo permetterci conservatorismi. Dobbiamo ridefinire un nuovo equilibrio tra conservazione del paesaggio e vivibilità delle città. Vale quando si parla del fotovoltaico e di vincoli ormai fuori dal tempo, o quando si parla degli alberi. Nel merito del singolo intervento possiamo discutere di tutto, dal tipo di albero alla qualità del progetto, ma non è accettabile un'idea di città immutabile, per cui dove non c'erano gli alberi non ci potranno essere. La sfida è essere capaci di coniugare bellezza e vivibilità, continua l'assessore, perché una città, come hanno giustamente detto Montanari e Mancuso, deve essere da vivere, non solo da guardare. Il piano del verde definirà i criteri di questa trasformazione necessaria, codificherà una grandissima attenzione alla qualità progettuale degli interventi dal punto di vista paesaggistico e sarà una guida fondamentale per una città che non può stare immobile a ricordarsi com'era mentre le sue strade ribollono, diventando invivibili per gli abitanti, i lavoratori e chi da tutto il mondo viene a vederla. Firenze dovrà cambiare, insomma, ben oltre i 50 aranci di via Cavour. E il perché è presto detto: il CNR ha elaborato dalle mappe con le aree di calore, delle mappe con le aree di calore, e l'area UNESCO è quasi tutta una scala di rosso, dal più pallido al color fuoco. Chiaramente più è forte il colore, più il colore del rosso, più la temperatura è alta. I picchi maggiori sono nella zona della Fortezza e di San Lorenzo, e poi Santa Croce, la zona intorno a Santa Maria Novella. Interventi per contrastarli si sono conclusi di recente, con 46 alberi piantati tra Lungarno della Zecca Vecchia, quindi sì, sul Lungarno della Zecca Vecchia sono 29 gli alberi, in Piazza Ferrucci invece 13, poi Piazza del Crocifisso e Piazza Santa Caterina, e poi entro l'estate, dice, ne verranno fatti altri con fondi europei. Tra Viale Strozzi, in cui verranno messi 18 aceri, Piazza Mentana, 4 Ginkgo Biloba, e Piazza Tasso, 6 querce. E allo studio ci sono altre due zone, si sono aggiunte altre due zone, ovvero infatti quella di Largo Annigoni, che al momento non ha alcun tipo di punto verde, e Piazza del Carme, dove nel 2017 furono piantati una ventina di alberi sul lato opposto alla chiesa. 6 anni in cui i residenti hanno spesso lamentato quanto questa grande piazza dell'Oltrarno fosse un'isola di calore, con pochi alberi ravvicinati, mentre là vicino in piazza Santo Spirito veniva vissuta l'ombra dai residenti. Ora anche lì è possibile che ne arrivano altri. Yeah. E dunque, siete ancora tutti voi ascoltatori su Radio Wombat. Oggi io addu qui con Nervature. Allora, non sto riniziando la puntata da capo, ma direi di fare questo primo stacchettino. Intanto mi sono ovviamente scordata di darvi tutti i recapiti, ovvero prima ve ne ho dato qualcuno, vi ho detto il sito dove potete trovare lo streaming e i podcast. Ma potete anche ovviamente ascoltarci in AM sulle frequenze 1359 e, oppure appunto su streaming già detto, ma non solo potete ascoltarci, potete anche chiacchierare con noi, quindi farci domande oppure riflessioni, semplicemente dei saluti amorevoli, quello che volete potete farlo sul pad. Il pad è un foglio di testo online condiviso e trovate il link dal sito, dalla sezione contatti, oppure altrimenti una volta che siete sulla pagina dello streaming, quindi avete già pigiato il bottoncino giallo della diretta, trovate lì sotto sempre il link per accedervi. In ogni caso potete anche inserire voi stessi il link nel browser, ovvero diretta.wombat.vado.li. Semplicissimo. Vi si apre il pad, semplicemente scrivete e io vedo tutto immediatamente e vi rispondo anche il prima possibile. Thank you. Allora, questi che state sentendo sono The Breaker Brothers e confesso che fin dalla prima musica della trasmissione di oggi stiamo sentendo The Breaker Brothers, quindi ripeto, non ho avuto tutto questo tempo per farmi una scaletta accurata, ma non so voi, ma io sto molto apprezzando comunque questo sottofondo. Fatemelo sapere se anche voi lo state apprezzando sul pad, quindi diretta wombat.vado.li. E quindi finora vi ho letto due articoli, uno più introduttivo, anche se l'ho letto dopo, ma insomma è uno più specifico, sul fatto che in piazza Nigoni verranno aggiunti un po' di pianticelle, un po' di sedutelle, insomma è stato approvato un progetto. Beh, cosa ne penso io? Sempre vi interessi, ma cosa ne penso? Ovviamente sì. Sicuramente è una piazza caldissima, faticosa d'estate, molto molto faticosa. C'è questa pavimentazione enorme che veramente risputa tutto il caldo da sotto fino proprio a sera tardi, se non proprio fino alla mattina dopo in estate. E quindi chiaramente lì un intervento vegetale è sicuramente auspicabile. Dopodiché la problematica in quel caso è che c'è un parcheggio sotterraneo e quindi, come sempre in questi casi, non c'è terra utilizzabile. Se c'è, comunque pochissima, non abbastanza per fare una piantumazione soprattutto di alberature. In questo caso, poi, quando i parcheggi sotterranei sono progettati con lungimiranza o comunque con un progetto complesso, si può anche prevedere delle alberature in superficie. Ovviamente è una situazione più complicata, gli alberi stanno un po' più stressati, comunque è plausibile, ecco. Non è proprio però questo il caso, tant'è che infatti, come stavamo leggendo, verranno messe sì delle alberature, ma saranno in delle fioriere, quindi in dei grandi contenitori riempiti di terra. E queste alberature, come leggevamo, sono alberature abbastanza grandi, non dice l'ordine di grandezza, ma leggevo dei gelsi, quindi si tratta di una seconda grandezza, e i gelsi sono alberi meravigliosi, quindi la scelta è ottima, anche se ho paura che soffrano un po' il caldo, perché va bene che mettono le piante per mitigare, ma prima di riuscire a mitigare queste piante devono crescere e comunque non è che fanno una foresta, quindi nonostante le aspettative sarà comunque una piazza molto calda. Quindi purtroppo non ci possiamo aspettare un cambiamento epocale. E quello che mettevo in luce io prima, che ripeto, è che alberature di questa taglia in delle fioriere avranno sicuramente delle problematiche. Ora, già per introdurre l'argomento successivo, che poi vi svelerò quando sarà il momento, bisognerebbe iniziare tutto a pensare il paesaggio e anche le città, perché anche le città sono dentro il paesaggio, cioè il paesaggio è un tutt'uno, proprio un po' dagli albori. Cosa intendo? Quando uno, per esempio, si trova a dover fare il progetto di qualcosa, appunto, tipo di una piazza in città, qualcosa di urbano, ma anche non urbano, in generale, la prima cosa a cui si deve pensare è: ok, voglio mettere una pianta, come vorrebbe stare quella pianta, dove vorrebbe stare, in quale quindi condizioni vorrebbe stare. Ora, se noi pensiamo a un albero dove si trova di solito in una foresta o comunque una semiforesta, non per forza molto densa, ma un ambiente dove quindi c'è tanto suolo permeabile, dove c'è altre piante, quindi una biodiversità molto, molto più ampia di quelle che si trova nelle città, dove c'è magari più umidità del terreno, perché? Perché c'è pacciamatura naturale, quindi una copertura del suolo data da foglie cadute, vecchi residui di legno, animali, residui di animali, eccetera, eccetera. Quindi una serie di condizioni veramente, se ci pensiamo in questo modo, complesse, quindi una quantità di fattori tutti insieme. Ora, detto questo, scusate la lungagnaggine nelle parole, ma ci tenevo un po'. Quindi detto questo, proviamo a paragonare una situazione del genere di foresta con invece una situazione di un albero piantato in una fioriera di, non so quanto saranno grandi, ma a dir tanto 2 metri per 2 metri, forse 3 per 3 se sono generosi, in città. Cioè, capite che ovviamente è un paragone difficilissimo, e tant'è che infatti queste difficoltà si riflettono poi spesso nella riuscita di questi progetti. Allora, smetto di annoiarvi totalmente, quindi di nuovo continuiamo con un po' di musichina e poi continuiamo a dare qualche altra piccolissima riflessione in più su questo progetto, e appunto ci sentiamo fra pochissimo. Thank you. Ed eccoci qui sempre i Breaker Brothers. Attenzione, mi scrivono dal pad. Ciao Addu, ciao ascoltatoru. Bello questo sax, sono d'accordissimo. E poi mi dicono alberi everywhere. E quindi appunto cerchiamo di concludere questo argomento riguardo a Piazza Annigoni. Dunque un altro elemento interessante che ho già accennato prima mentre leggevo è il fatto che sono stati scelti piante già molto molto grandi per l'impianto, di 40-50 centimetri di diametro del fusto. E si sta parlando delle alberature, quindi tra l'altro sono gelsi e catalpe, che non lo sapevo, l'ho scoperto adesso. Le catalpe si chiamano anche alberi da sigaro, sinceramente non so perché, probabilmente ci si fanno i sigari, non so, fatemi sapere se voi lo sapete su direttawombat.vado.li, il pad condiviso che potete usare per chiacchierare con me in diretta. Quindi appunto, piantare piante già molto grandi è molto, molto, molto rischioso per il loro attecchimento, perché più una pianta è piccola, più riesce a ambientarsi a differenti situazioni, condizioni, a stress in generale. Ma insomma, è un po' così anche per noi esseri umani, ecco, secondo me. E quindi questo potrebbe essere un po' un aspetto problematico. Infine, dice, questo progetto dovrebbe essere realizzato entro novembre, cioè fra un mese, ma ora non so, forse mi devo ricredere, ma diciamo di solito i tempi biblici italiani e fiorentini per realizzare i progetti, insomma, non so se possono cambiare così dall'oggi al domani, ecco, dall'oggi al novembre, ecco, così, diciamo così. È vero che non è un progetto molto complicato, appunto si tratta di fondamentalmente portare lì materiale, non è che c'è da rifare strade o rivoluzionare tubature o non so, oddio, forse per l'irrigazione sì, ma insomma non è una cosa colossale sicuramente, però mi sembra ottimistico. Comunque stiamo a vedere, e anzi cercherò di tenerci tutto aggiornato qui su Nervature al riguardo. E ultima cosa poi interessante è che questo progetto avrà un costo di 100.000 euro. Anche lì sicuramente io non sono abbastanza esperta per valutare una cifra del genere. Così a naso mi sembra tanto, però boh, sicuramente se potevano farlo meno caro lo facevano, immagino. E quindi speriamo che questo progetto venga realizzato per bene, che gli alberi attecchiscano bene, eccetera, eccetera, eccetera. Come sempre, ovviamente, sono sempre cose da auspicarsi. Allora, quindi questo argomento lo ritengo concluso, ma vi introduco vagamente il prossimo argomento, che oltretutto con una puntualità micidiale vi parlerò a brevissimo, ovviamente uno stacco musicale, del Festival dei Maestri del Paesaggio, Landscape Festival, che si è tenuto a Bergamo proprio pochissimi giorni fa. Appunto ne parleremo fra pochissimo, non solo con me Addu, ma addirittura c'è un bellissimo ospite che è appena entrato in regia. Ci sentiamo fra pochissimo. Eccoci. Pronto? Pronto? No, ci sono. Non mi sento più? Ok, scusate, non mi sentivo più. Eccoci qua, dunque, abbiamo totalmente cambiato genere. Questi erano i Birds of Canada dall'album Geo Gaddi, nome particolare, non so cosa significhi. Dunque abbiamo un nuovo ospite in studio di cui dobbiamo provare il microfono. Prova. Eccolo okay. Lì. Riprova un po', si aggiusta i volumi. Ciao a tutto. Più o meno ci siamo quasi. Buonasera. Allora, eccoci qua. Dunque, chi c'è qui con noi? C'è Zazzi. Eccola, l'avete già sentita, quindi qualche puntata fa vi abbiamo raccontato di città, per l'appunto. Vero. Quindi tra l'altro ti inserisci bene in tutti i modi. Cioè sei arrivata precisamente nell'istante in cui ho finito l'argomento precedente per iniziare insieme un nuovo argomento, ma oltretutto l'argomento precedente era la città, in particolare la nostra città di Firenze, quindi proprio una perfezione incredibile. Dunque... Stavolta però adesso si cambia città. Ah sì, scusa, vedo ora commenti sul pad. Penso sia lo stesso ascoltatore di prima che mi chiede: ma quanti alberi sono? Penso si riferisca a Piazza Annigoni. Dunque sono, ve lo ridico, 16 alberi, quindi 12 gelsi e le altre sono catalpa. Esatto, e 4 catalpe. A quanto pare albero da sigaro. Ho scoperto che si chiamano anche albero da sigaro. Ti salutano, ciao Zazzi, ben ritrovata. Ciao. grazie mille per questi commenti, per questi saluti sul pad. E quindi esorto anche tutti gli altri numerosi ascoltatori che ci stanno appunto ascoltando a chiacchierare con noi su direttawombat.vado.li. Quindi connettetevi anche voi al pad condiviso. Allora, avevo giusto vagamente introdotto il nuovo argomento, che è appunto l'edizione dell'anno di quest'anno, quindi del 2023, di I Maestri del Paesaggio, che è anche chiamato Landscape Festival, che si tiene a Bergamo dal 2011. È un evento di rilievo internazionale dedicato alla promozione della cultura del paesaggio. E tra l'altro appunto accennavo una delle caratteristiche che definiscono il paesaggio giusto prima, quindi il paesaggio è un insieme complesso di elementi in cui, ripeto, sono comprese tutti elementi definibili naturali, quindi boschi, colline, monti e piante, ma anche le città e le infrastrutture, quindi il paesaggio è un connubio di tutti questi elementi. Il Landscape Festival di Bergamo è riconosciuto come un evento unico in Italia e all'avanguardia in Europa per visione, contenuti e format esperienziale. Allora, io devo confessare che non ci sono mai stata, ma attenzione, per questo chiedo aiuto spesso. E infatti te, Zazzi, ci sei stata, no? Ci sono stata. E quindi puoi, diciamo, confermare questa piccola descrizione che ho trovato sul sito proprio del festival? Beh, dai, allora, io ci sono stata solamente una giornata che era appunto più riguardante vari personaggi che venivano lì a parlare rispetto a quello che è il loro lavoro, e sicuramente c'erano figure da varie parti del mondo, ecco. Quest'anno credo per la prima volta ci fosse anche uno studio proveniente dal Sudafrica e quindi insomma cercano di mettere insieme più visioni, però sì, diciamo, è quindi interessante per quello. Poi ovviamente alcune cose sono un po' più significative, altre un po' meno. Anche rispetto a quelle che sono le tematiche che si discutono adesso, quindi non tutti forse sono stati troppo interessanti per quello che è, appunto. Poi io mi faccio portavoce un po' di me e di tutte le altre persone che sono venute con me, quindi cerco di fare un sunto, ecco. Grazie infatti per questo tuo, per quanto mi riguarda, preziosissimo contributo. Niente, mi fa molto piacere. Bene, bene. Allora, farei una brevissima pausetta musicale e poi ritorniamo sempre sullo stesso tema, quindi andiamo con calma oggi e vi metterei quindi una bella musichetta dei Chemical Brothers. Eccoci, tornati. Questo era, aspetta, ve lo dico, Galaxy Bounce dei Chemical Brothers. Sculettante la definirei. bella, mi è piaciuta. Esatto. Allora, quindi, stiamo parlando dei Maestri del Paesaggio Festival, Landscape Festival, che si svolge ogni anno a Bergamo, quest'anno tra l'altro anche a Brescia. E Zazzi mi sta aiutando quindi a commentare tale evento proprio perché lei c'è stata e io no, quindi semplicemente per questo. Ma attenzione, non è l'unico contributo che abbiamo oggi. Infatti ci tengo a leggere un altro articolo di un'altra persona che ha potuto parteciparvi. Non è qui con noi, ma appunto leggo questo articolo, a mio parere molto bello, fluido e più che altro emozionale, proprio bello. Si tratta di Cecilia Lucchesi, che è progettista e vivaista di Firenze, di un vivaio appunto nei dintorni di Firenze, che sulla newsletter del suo vivaio, ovvero Mondo Rose, ha pubblicato questo articolo scritto di suo pugno che andiamo appunto a leggere, e così abbiamo una seconda voce di quello che è stato il festival a Bergamo. Eccomi qua. Parole chiave per il giardino di oggi proiettato al domani, una rilettura utile e necessaria per tutti gli amanti del pianeta, dice Cilia Lucchesi. Sono tornata da 3 giorni di conferenze e incontri sul tema del giardino mediterraneo e della crescita Green Grow Together. Concetti ampi e variegati, suscettibili di soggettive interpretazioni, ampiamente trattati dai numerosi relatori che si sono alternati sul palco del Teatro Sociale di Bergamo e Sala Piatti. In questo articolo riporto la mia voce sui concetti che ritengo fondamentali e che sono emersi durante il convegno. Come operatori del verde abbiamo un ruolo di fondamentale importanza per incidere in modo sostenibile e lungimirante sulla pratica del fare e del pensare il paesaggio, sia esso sotto forma di aree urbane e ampi parchi, ma anche di giardini privati. Una sintesi che è emersa da diversi interventi è racchiusa nello slogan «Piantare le piante giuste al posto giusto», un concetto che può sembrare banale e scontato, anche se in realtà contiene significati innovativi e rivoluzionari. Mi intrometto, quindi parole mie, non sue. Questo piantare le piante giuste al posto giusto è un po' il discorso che cercavo di introdurre prima quando commentavo il nuovo progetto di Piazza Annigoni. Quindi quando uno progetta, prima di mettere piante a caso, fondamentalmente fare una riflessione ma accurata, proprio che sia funzionale poi alla progettazione, riguardo a dove quelle piante vorrebbero stare, non dove io le voglio mettere, ma dove loro starebbero bene. Se poi risulta che dove io le voglio mettere non starebbero bene, allora forse non ce le metto o cambio specie. Quindi vado avanti con l'articolo. Valerio Miragoli, o Miragoli, non so, giovane paesaggista che opera principalmente a Ibiza e alle Isole Baleari, sostiene che il concetto di giardino paradisiaco, il giardino sexy o appealing, non è più facilmente perseguibile, a meno di adottare i vecchi cliché che obbligano a interventi sulla qualità del terreno, alterando la sua naturale conformazione, e apporto di acqua laddove il clima e disponibilità non lo permettono. Il concetto di pianta giusta al punto giusto, come sottolinea la botanica francese Véronique Muir, nel contesto del giardino mediterraneo, suggerisce un atteggiamento rispettoso e non interventista, dove il suolo non viene pressoché toccato, dove piccole piante sono inserite e bagnate solo al momento dell'impianto e non vengono viziate, dove si pianta largo aspettando che le piante prendano tutto il posto a loro congeniale, dove a causa della scarsità d'acqua le infestanti difficilmente potranno prosperare e propagare, dove il seme prodotto dalle piante inserite avrà modo di radicare con i tempi e nei modi necessari, dove il giardiniere, sulla base di esperienza e sensibilità, potrà decidere quale seme mantenere e quale no. Di conseguenza, il piantare fitto, il tutto è subito e pronto effetto, sono concetti da dimenticare nel vocabolario del giardinaggio sostenibile. No, è incredibile, perché cosa è che stavamo leggendo prima? Stavamo leggendo di 16 alberature di diametro del fusto di 50 cm piantate in delle fioriere in una piazza caldissima di Firenze. Ora, c'ha sicuramente delle problematiche questo progetto, non c'è dubbio. Eh sì, infatti vedremo cosa ne uscirà e cosa crescerà a infatti, questo punto. Infatti, cosa sopravvive. We'll be right back. E allora continuo quindi con l'articolo. Ispirarsi al paesaggio, comprenderlo, leggerlo, rispettarlo, entrarci in empatia, sostiene la paesaggista Silvia Ghirelli. Studiare il luogo, le piante che lo abitano, gli insetti che lo fecondano, ascoltare, sentire l'odore della sabbia e gli aromi che lo distinguono, sono i consigli di Thomas Doxiadis, che opera in Grecia e nelle isole in giardini, che sono il prolungando della Garriga addomesticata, solo perché più accessibile alle abitazioni mimetizzate nella macchia. Secondo Martin Rein Cano, autore dell'installazione di Piazza Vecchia di Bergamo, il concetto di sostenibilità contiene un forte messaggio sociale: involvement, temporality e durability. Il suo intervento ha fatto tanto discutere perché è di un'estetica rigida e poco bella, poco appealing. Una piramide con pali innocenti invasa di piantine da riforestazione. Certo non rappresenta un bel giardino come ci saremmo aspettati da parte del paesaggista votato a rappresentare il tema del Grow Together. È bastato immergersi con semplicità e senza preconcetti né animo giudicante, per apprezzare la grandezza dell'opera. L'albero al centro dell'agorà, l'albero al centro del luogo è deputato all'incontro, alla socialità, l'albero motore e pulsazione di vita, l'albero risorsa e salvezza del futuro, l'albero che potevi anche prendere e portare nel tuo giardino come suggerimento a responsabilizzarci per il compito determinante che ognuno di noi può e deve assumersi a difesa del pianeta. Allora, per integrare queste bellissime parole, appunto sì, è stata fatta nella piazza di Bergamo questa installazione che consisteva in una piramide, anzi una forma di... Sì, era una sorta di piramide, diciamo, a base quadrata, che su più piani a salire, quasi fosse anche essa una scalinata o comunque verso la cima, dove si apriva e si poteva vedere lo zampillo della fontana che era sottostante a questa, e sopra c'erano appoggiate tutte le varie piantine. E c'è da dire che, cioè, appunto, ritrovo ovviamente quello che è scritto rispetto a quello che è stata anche la mia esperienza lì, e c'era appunto anche di base un po' questa idea di, essendo che loro riprendevano un po' il concetto di piazza come anche palcoscenico nel quale mettere in scena qualcosa, volevano appunto rimettere anche lì un qualcosa nel mezzo che facesse cambiare la modalità di percorrere la piazza o ricatturassero l'occhio, che comunque fosse qualcosa di estraneo, ecco. Un dubbio che però appunto è sorto discutendo appunto anche con gli altri è che il fatto di prendere una pianta, che appunto erano arbusti o comunque alberi, quindi piante che in teoria dovrebbero durare e crescere molto a lungo, permetteva sì di mantenere più a lungo quest'opera, quindi di renderla duratura e non più temporanea, però quante persone effettivamente erano consapevoli di quelle che potevano essere le pratiche per mantenere queste piante, appunto qual era il posto giusto poi di collocarle, perché adesso non abbiamo indagato troppo, però non sappiamo se quali indicazioni dessero, se fossero sufficienti, e comunque anche la consapevolezza di chi poi le andava appunto a prendere e se le portava a casa, ecco. Certo, infatti uno dei grossi temi quando si parla di appunto gestione del verde è quello della comunicazione, informazione, consapevolezza al pubblico, che è sempre ovviamente molto molto complesso. Infatti sì, era proprio quello che mi chiedevo, esatto. Quando ho visto insomma le foto dell'installazione, mi sono chiesta proprio questa cosa, ma chissà se chi l'ha presa sa come piantarla, perché e chissà dove la mette, perché se la mette in vaso sul terrazzo, perché magari il giardino non ce l'ha, giustamente, esatto. Insomma, non è che cattura tutta sta CO2, ecco, se vogliamo no. Metterla così. Però è un'opera interessante, penso che non si possa mai arrivare al 100% della genialità. Certo, e devo dire che dipende tutto appunto poi come è stata comunicata e che informazioni sono state date, però ovviamente spesso magari ho visto cose simili ma fatte con piante appunto che possono essere a fiore o altre cose più piccole. Qua diciamo è stata una scelta sicuramente un po' più coraggiosa, possiamo dire, di dare delle piante che vanno mantenute più a lungo, certo, e certo. Hanno una, come dicevi anche te rispetto a, appunto la cattura della CO2 o tanti altri aspetti, un potenziale maggiore, ecco. Sì, sì, certo. E in ultimo appunto mi è piaciuto molto quello che anche riprendevi e che anche stavamo leggendo nell'articolo di, della progettista e vivaista Cecilia Lucchesi, è che è un'opera coraggiosa anche dal punto di vista estetico, quindi vedevo in altre edizioni la piazza era stata allestita con dei grandi giardini, queste passeggiate meravigliose, paradisiache, in mezzo al verde, ma che appunto erano cose temporanee. Invece questa, un'opera così geometrica, squadrata, forse mi sembrava anche sproporzionata rispetto alla grandezza della piazza, se ho visto bene. Sì, alcuni, appunto sempre riportando commenti, appunto la vedevano proprio come in realtà un ostacolo visivo. Cioè in questa piazzetta che è piccola, dicevano, ma questa roba è, sì, esatto, è sproporzionata, è troppo, chiude quella che è in realtà probabilmente le relazioni che dovrebbero crearsi all'interno tra i vari... spazi che si aprono, si chiudono. Certo, quindi appunto è stato un intervento più con l'obiettivo più funzionale che estetico, ecco. Sì, sì, però appunto come diceva lo stesso progettista, lui voleva far discutere, perché nella discussione, certo, nel confronto in realtà poi fai porre un po' l'attenzione su qualcosa, cioè le persone anche infastidite ma almeno notano quello che tu hai creato. E poi da lì magari inneschi appunto delle discussioni, dei commenti, insomma vai avanti e puoi creare qualcosa. Certo, certo, ma infatti mi sembra abbia funzionato. Ah sì, sì, sì. Allora, quindi concludiamo l'articolo di Cecilia Lucchesi. Ispirarsi alla natura riproduce i suoi effetti... Ispirarsi alla natura, riprodurre i suoi effetti, prediligere piante autoctone o piante esotiche provenienti da paesi con condizioni simili, prediligere fioriture semplici di piante spontanee alle fioriture composite e complesse delle orticole, semplicemente perché più gradite agli impollinatori. Lasciare le foglie al suolo per la decomposizione o come pacciamatura naturale e a costo zero. Prediligere coperture inerti come ghiaia, sassi, sabbia. Ammirare la farfalla ma anche il bruco che si ciba delle foglie. Tollerare i cali estetici estivi del cisto o della flomis che chiudono le foglie per proteggersi dal sole e risparmiare acqua. Vivere il periodo estivo come uno stato di dormienza invertita all'inverno. Sviluppare un'affettività con il giardino e le piante anche nelle piccole imperfezioni e mutazioni. Diventare i protettori delle piante, della natura ed evitare di controllarla, essere noi stessi in natura. Il ritorno di uccelli, insetti, piccoli roditori sono un segno per capire che il giardino è realmente in equilibrio. L'estetica non è più sufficiente e non è il fine a cui tendere. Cerchiamo di non beautifulizzare il giardino, facciamo sostanza e durabilità. Dalla 3 giorni esco rafforzata, motivata e stimolata nel lavoro di progettista giardiniera. Mi auguro di riuscire a trasferire questi e altri concetti emersi al meeting ai miei clienti e incamminarci insieme nell'unica direzione possibile e sostenibile del Grow the Planet, Grow Together, nel Io sono natura, come recita in tutte le lingue dal giapponese al danese, dall'italiano al francese, la cilena paesaggista filosofa Teresa Moller. E con le parole del geniale anticonformista Peter Korn, giving plants what they want. Ringrazio Archetipo e Valfredda per l'organizzazione e l'accoglienza. Io sono Natura, by Cecilia. Molto bello davvero, sì. Decisamente sentito, ecco. No, ma veramente giustamente. E, quindi sì, mi interessava questo articolo un po' perché descrive effettivamente quello, diciamo, i concetti fondamentali, almeno credo, di cui hanno parlato a Bergamo, ma anche cosa poi lei, esperta del settore a tanti anni, ne ne ha ricavato, quindi cosa, come dice alla fine, vuole portarsi a casa. Sì, sì, ma infatti è un bel excursus, prendendo varie frasi che comunque sono state dette, che sono state... che hanno fatto parte ovviamente anche appunto di questo meeting, che è stata l'unica giornata in cui sono stata presente, e devo dire che ritrovo in maniera molto sintetica e accurata i vari commenti. E, sì, quello che può essere, diciamo, il mio intervento è più anche riguardante, insomma, passo passo quelli che sono state le persone che si sono susseguite all'interno di questa giornata. E vabbè, abbiamo già parlato, diciamo che il primo intervento è stato fatto da il progettista dell'opera all'interno della piazza di Bergamo, e quindi quello, insomma, già ne abbiamo parlato. Poi appunto la seconda persona che è intervenuta è Silvia Ghirelli, e che anche nell'articolo era nominata, dove lì è stato interessante in realtà capire come lei, insieme al suo studio, abbia fatto proprio un percorso dal primo momento in quale aveva cercato insomma, un'idea di base per portare avanti il suo progetto, dove lei lavorava a Brescia, e fino a proprio la realizzazione, e un po' tutti gli ostacoli che aveva trovato, perché appunto rifacendosi all'idea di labirinto che aveva preso da documentazioni riguardo all'area, era poi arrivata a voler creare appunto un labirinto in una delle piazze di Brescia, appunto. Il problema è che è stata, diciamo, ostacolata dal fatto di voler mettere delle siepi troppo alte rispetto a quello che era consentito, quindi anche creare degli spazi magari bui o comunque dove non c'era troppa visibilità, e quindi poi ha scelto in maniera, diciamo, anche facendosi ispirare da scenografi, comunque leggendo altri libri e cercando di capire in che maniera dare comunque un'idea di labirinto, ma in altra maniera, e attraverso appunto la creazione invece di isole con terre, quindi con materiali inerti, che poi da lì potessero svilupparsi altre piante, però sempre più piccoline, ma almeno creando questo disegno. Quindi lì è stato comunque interessante capire come certe volte, lavorando col pubblico soprattutto, bisogna scontrarsi con quella che è l'amministrazione, tutte quelle che sono le regole di base degli spazi pubblici, eccetera, eccetera, e quindi fare un po' dei compromessi, per forza. Sì, tra l'altro questo è un tema veramente fondamentale, praticamente sono il pilastro fondamentale della progettazione in ambito urbano, sì. Quindi lo scontro potente e violento contro sia l'amministrazione comunale sia poi i cittadini, ma si capisce quanto questo scontro è difficile anche solo dal fatto che, come riporta Cecilia Lucchesi nell'articolo, anche con i suoi clienti, lei lavora nell'ambito del privato, anche con i suoi clienti ha difficoltà a quanto pare, quindi nonostante magari, io immagino, si interfacci con famiglie o coppie, suppongo, anche in questi casi lei e la sua equipe debbano lottare per far capire il motivo di una scelta che sì. Inizialmente è meno estetica, per esempio. Sì, sì, sì, no, assolutamente, molto d'accordo. Ma perché anche durante appunto questa giornata, poi lo dicevano, spesso siamo un po' guidati da delle utopie di giardini bellissimi, di quelli che anche, non so, vediamo nelle riviste, o era buffo come parlassero anche di serie TV, che magari con i loro villoni, i loro giardini totalmente, probabilmente molto poco sostenibili, diciamo, venissero appunto trasmessi nelle TV, eccetera. Quindi tutti noi abbiamo immagazzinato delle nostre idee che ad oggi non si possono più praticare. Tra l'altro, infatti, avevo sentito anche una riflessione un po' critica riguardo all'intervento di, come si chiama, una fotografa, chi era? Sì, ce l'ho. Aspetta, lei si chiama, ora, Teresa Moller, è lei? Insomma, comunque, una fotografa ha fatto un intervento lì a Bergamo. Mi hanno raccontato, presentando una serie di foto fatte da lei di tanti giardini, che però lei, giustamente, ovviamente essendo fotografa, erano tutte foto spettacolari, sì. Di giardini, oltretutto molto belli, E quindi la critica era un po', ma dopo tutti questi discorsi che bisogna guardare al vero essere delle piante, non a quello che noi ci immaginiamo e vorremmo avere nel giardino, all'estetica, poi invece arriva un intervento con tutte queste foto strabilianti. Sì, oltretutto su questo, lei si chiama, l'ho ritrovato, Claire Takag, potrebbe essere, e sì, diciamo che sono abbastanza d'accordo, e inoltre, cioè, anzi sono d'accordo, e inoltre una cosa che aveva infastidito me, come appunto gli altri, era anche il fatto di non nominare i giardini, cioè non c'era quasi mai il nome di dove sono, dove, cioè anche quindi quello un po', perché magari alcuni di quei giardini in alcuni contesti possono esistere, possono funzionare, eccetera, ma in altri no, quindi non era, inoltre non c'era neanche l'autore, e quello un po' dispiaceva, perché anche non si potevano andare a ricercare, a capire un po' meglio come, quindi sì, sicuramente molto belli, però non, beh, poi dopo un po' anche molto ripetitivo, cioè perché comunque era non essendoci troppo neanche un discorso, un filo di connessione tra tutte queste, insomma era un po'... Sì, non è stato neanche da noi troppo apprezzato, devo dire. Ecco, vedi, interessante, quindi sentire varie voci, molto interessante. E invece, vabbè, diciamo, un intervento che è stato molto apprezzato è quello di Made Associati, che in realtà loro sono uno studio di Treviso, e che spiegava appunto, come anche accennato nell'articolo Cecilia Lucchesi, come noi appunto, loro hanno chiamato il loro intervento natura umana, appunto perché con questa idea del fatto che noi abbiamo sempre cercato di controllare la natura e quindi di farla nostra, e adesso invece dobbiamo un po' capire, stiamo iniziando a usare tutte le parole di adattamento, come adattarci noi, quindi al contrario di quello che abbiamo cercato sempre di fare, ci stiamo un po' muovendo per risolvere per noi, diciamo, almeno la situazione, quindi cercare come noi adattarci. E avevano tirato fuori anche un loro progetto, sempre temporaneo, che secondo me era molto divertente, dove c'era una sorta di prato che fungeva da tappeto e sopra un aspirapolvere, quindi con appunto questa idea di controllare, di sottomettere la natura, diciamo, bellino, tenerla. Bellino. Sì, sì, molto, molto simpatico. E loro hanno tutta un po' una loro filosofia, per me molto interessante, che... e rispettosa, insomma, dal mio punto di vista, sul fatto di quando lavorano in un certo luogo cercano di capire tutto quello che è già presente in quel luogo e che quindi può essere durante gli interventi, diciamo, mantenuto, e soprattutto tutte quelle che sono anche le energie, come anche non so, il vento che trasporta i semi, tutto quello che circonda quell'area, proprio anche dall'esterno, di altre forze che lo possono trasformare e che lo possono progettare anche esse stesse. E quindi c'è tutta questa idea di conservare l'energia, conservare quello che c'è lì all'interno per non consumarne dell'altra. Tra l'altro, guarda, bella questa cosa. Molto bella, molto. Molto bella. E tra l'altro hai detto, cioè mi stai un po' illuminando. Allora, hai detto quindi queste altre forze esterne possono progettare anche loro, no? Il giardino. È bellissimo questo modo di pensare, perché siamo veramente... incurabilmente antropocentrici noi umani. Eh sì, esatto. E, però effettivamente rifletto ora che dovremmo metterci come... cioè, metti che io sono progettista. No, io sono il braccio destro del progettista. Chi è il progettista è la natura in sé. Cioè, è sempre il mondo e la natura, per come già sono fatti, a essere i primi progettisti di tutto, poi. Tant'è che infatti il paesaggio è... per buona parte il loro progetto. Sì, in certo sì, senso. Diciamo che sicuramente prima che noi arrivassimo era totalmente loro il progetto. Poi abbiamo iniziato a interagire con questo. Esatto, esatto. E mano a mano, diciamo, è diventata un insieme di nostre azioni e su loro azioni. Sembra che stiamo tipo idolando un sì, dio. Vabbè, queste forze. E niente, riporto, diciamo, un esempio che del loro progetto, che si chiama Parco della Cultura Antonio Carego Negrin, dovrebbe essere, sì, che era il progettista di questa, di questo giardino storico, in realtà poi dimenticato per varie vicissitudini del parco, e all'interno c'era una villetta di altre persone che insomma si era impostata, ma che non si collegava bene con tutta quella che era la storia del parco, ma neanche stilisticamente, insomma era stata un po' posizionata appunto forse anche lì in una maniera molto io mi impongo, io sono qua, questo è il mio spazio. E loro dovevano realizzare altre strutture all'interno di questo parco, insomma capire come rivalorizzarlo, e dovendo fare un'altra struttura, però volendo abolire insomma questa villetta, quindi togliendola, hanno deciso di non toglierla ed eliminarla del tutto, ma di tagliarla fino alla base, mantenendo tutta quella che era la fondamenta di questa casa, che è una delle parti in realtà dove devi spostare il terreno, scavare, fare la fondamenta, riportare. E loro invece hanno deciso no, non operiamo in questa maniera perché non ha senso, cioè esiste già questa cosa, esiste già la villa, e così anche manteniamo comunque la storia del luogo dove c'è stata questa incursione, e quindi hanno deciso di appunto realizzare lì all'interno uno spazio che potesse anche servire per performance, spettacoli, eccetera, eccetera, e nell'area centrale, e nelle altre stanze, se così possiamo dire, che si trovavano nella casa, invece riporre delle fioriere, e quindi appunto riutilizzare questo spazio per poi eventualmente, non so, costruirci nuovamente sopra, rifarci questa struttura che dovranno fare, insomma, comunque lasciando aperte più vie. Bello, bello, interessante, anche innanzitutto direi dal punto di vista tecnico. Mm-mm. Perché come dicevi demolire è molto costoso per vari aspetti, sia per il lavoro in sé della ruspa eccetera, sia per lo smaltimento dei materiali. Esatto. A meno che non vengano riutilizzati, e in particolare effettivamente quello di rimuovere la terra, sì, per levare proprio le fondamenta, immagino sia la parte più onerosa. Sì, e poi appunto essendo che volevano fare comunque una biblioteca, insomma, rifare anche un'altra struttura, avrebbero, se non ci fosse stata quella già esistente, a mettersi loro, fare le fondamenta, ricreare tutto. Avendole già, risparmiano un passaggio e appunto non riconsumano quello che, certo, già c'è. E se, correggimi se sbaglio, ma una delle conferenze, quella del... Ora te lo dico... Ora te lo dico, madonna, eccolo, Thomas Doxiadis, se sì, non mi sbaglio, anche lui ha portato un progetto, almeno uno insomma, in cui hanno riqualificato una vecchia area di smaltimento rifiuti, può darsi fosse può lui. Può essere, sì, sì. Sì, dopo aveva fatto anche un lavoro di recupero di un aeroporto. Comunque sì, no, potrebbe essere qualcosa anche sul... Ah no, allora forse mi sbaglio. Comunque uno in cui hanno recuperato quest'area di smaltimento rifiuti, che era quindi una discarica, mm-hmm, e le discariche praticamente hanno varie stanze, diciamo, fatte di solito in cemento, pavimentate proprio in cemento, quindi impermeabili, dove vengono portati tutti i rifiuti e le ruspe poi le devono rigirare. Quindi questa è la conformazione base. Insomma, hanno dovuto... quindi recuperare quest'area che non era più utilizzata a questo fine per farci un parco pubblico, mm-hmm, e nel farlo sono riusciti a riutilizzare molte delle architetture già presenti, e quindi tutte queste, diciamo, semistanze già presenti in cemento le hanno ricolorate, alcune fatte bucate per dare effetto vedo non vedo, quindi comunque permeabilità visiva, quindi integrazione del parco come un unico elemento, ci hanno fatto le pareti arrampicata, sì, quindi sì, è diventato, sì, tipo, sì, parco giochi. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, no, ma infatti sono azioni tutte molto importanti e secondo me, insomma, andranno sempre più fatte in questo senso, quindi cercando di mantenere quello che c'è, cercando di capire quanto è necessario fare in più, però sempre nei limiti, diciamo, dando spazio poi appunto alla natura e tutto il resto di riprendersi un po'. E oltretutto sul tema dei rifiuti, sia Madre Associate e che Thomas Doxiadis hanno parlato comunque appunto dei rifiuti come l'aspetto che sarà, che farà parte, diciamo, di quello che noi lasceremo al mondo, quindi un po' la nostra, quello che diventerà l'archeologia, che, cioè, se verrà studiata, diciamo, l'archeologia nel futuro, il nostro strato sarà, saranno i nostri rifiuti, probabilmente, che è una cosa comunque un po' impressionante se dobbiamo lasciare solo questa traccia. Immaginiamoci, no, non solo, però... un Pompei di rifiuti. Sì, esatto. Bello. E quindi iniziamo un po' a immaginarci questa, di essere, sì, ricordati, così. Sì. Vediamo noi se ci piace, va bene. Insomma. Io confido nei funghi. Tu confidi. E a proposito di funghi, sempre Thomas Doxiadis, appunto, ha presentato un suo progetto che aveva portato alla Biennale, che è quella che si chiamava Come vivremo insieme, diciamo, tradotto How Do we Will Live Together, credo, una roba simile, comunque. E appunto aveva portato un'opera con dove c'erano vari funghi, spore di funghi che aveva trovato lì all'interno, proprio all'arsenale, e che man mano, appunto, comunque erano mantenute, ovviamente molto controllate, in ambienti protetti, e però facevano vedere come anche questi esseri, che in realtà le persone ancora meno delle piante probabilmente ne hanno consapevolezza della loro grandiosità e numerosità e proprio diversità che ne esistono, e quindi appunto aveva portato questa installazione per sensibilizzare anche su questo tema, andandosi proprio a ricercare tutte, facendo studi, facevano vedere anche varie foto dei loro, appunto, in laboratorio, che vedevano tutta l'evoluzione dei funghi. E insomma, anche questo secondo me è un aspetto interessante, come comunque anche chi fa paesaggio non si debba mai fermare nel proprio studio, nel conoscere, nel cercare di capire ogni interazione, cosa porta e quali sono poi tutti gli aspetti che fanno parte del paesaggio, dal più microscopico anche. Eh sì, giustamente questo è un aspetto importante, anche secondo me, e tra l'altro anche affascinante, perché se un appassionato di questi argomenti o di professioni, appunto, che li riguardano, c'è sempre, sempre, sempre di più da sapere, mm-mm, da imparare, a sapere, a scoprire, c'è sempre a cambiare, ecco. E volevi aggiungere qualcos'altro? Allora, guardo un po', guarda, forse l'unica altra cosa, visto che era stata citata, su Peter Korn, ma anche in realtà un altro studio, il studio Gillespie, che entrambi, soprattutto dello studio Gillespie, Giacomo Guzzon, la persona che appunto parlava al meeting, e di entrambi era interessante come sperimentassero quasi giornalmente con le piante, appunto cercando di capire le loro interazioni, come metterle assieme e appunto capendo quali poi insieme a qualcun'altra sopravvivesse, quale no, quindi anche nel disegno delle piante, di come mettere a dimora le varie piante, capire le relazioni, eccetera, e come questa cosa fosse in continuo. E infatti le loro opere sono ricche, però, diciamo, più consapevolmente, comunque c'è dietro uno studio, una base e anche una sperimentazione notevole, ecco, quindi era bello vedere e capire come anche loro si approcciassero a... Perché alla fine una grande cosa che ho ritrovato sicuramente è un po' un motto che ogni volta anche a noi dicono e hanno detto, sul fatto che il paesaggio non ha scale, e quindi è sia, diciamo, quello di tutta la regione, dove devi capire le relazioni che si hanno tra le città, fino a io devo mettere questo fiore qua, in questo punto, insieme a quest'altra di fianco. Cioè, quindi è tutto. È una... davvero, sono professioni complesse. Molto, molto complesse. Complesse, davvero. Sì. E quindi grazie mille davvero, Zazzi, per questo suo contributo fantastico. Guarda, sono proprio contenta di aver potuto beneficiare di qualcuno che è stato presente al Landscape Festival, ovvero i Maestri del Paesaggio di Bergamo di quest'anno 2023. Grazie mille a tutti voi e spero alla prossima. Spero anch'io, e spero appunto di rivedersi, risentirsi prestissimo. E Oddio, ma c'era scritto sul pad, era lo studio made, ma scusatemi, ho visto ora il messaggio, quindi non so più a cosa si riferiva. E, comunque questo era quanto per la puntata di oggi. E, ci risentiremo quindi con Nervature tra una settimana precisa, quindi lunedì prossimo, sempre alle 19, con me, Addu e chissà forse quali altri ospiti. Spero sempre di avere la fortuna di poter ospitare voci esterne e tra l'altro anche voi ascoltatori, perché no? Cioè, proponetevi se avete qualcosa da dire, da chiacchierare insieme. Dunque vi lascio con un ultimo pezzo, Arms of My Baby di Joss Stone, e quindi a risentirci, come dicevo, fra una settimana. A presto e buona serata, ma vi lascio tra l'altro nelle mani della prossima trasmissione Topo Jig. Ciao ciao! Living on the road is so damn tough.